Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Matteo capitolo 12, versetto 36. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Le parole sono potenti. Con esse possiamo costruire o distruggere, benedire o maledire, ispirare o scoraggiare. Gesù nel suo ministero non ci ha insegnato solo come vivere, ma anche come parlare. In Matteo 12,36 ci dà un avvertimento serio. Dovremmo rendere conto di ogni parola vana che avremmo pronunciato. È un promemoria che le nostre parole contano non solo nel momento in cui le diciamo, ma anche per l'eternità. Pensaci un momento, quante volte parliamo senza riflettere, lasciando uscire parole che forse non hanno intenzioni maligne, ma che sono inutili o persino offensive? Gesù ci chiama a uno standard molto più alto, uno in cui le nostre parole riflettano il carattere di Dio e l'amore di Cristo. Questo versetto è un invito a riflettere sull'impatto delle nostre parole e sulla responsabilità che abbiamo verso di esse. Cerchiamo di comprendere meglio questo passo. In Matteo 12 Gesù sta parlando ai farisei che lo avevano accusato di scacciare i demoni per il potere di Satana. In risposta Gesù li avverte sulla gravità delle loro parole, indicando che quelle accuse non solo erano sbagliate, ma pericolosamente blasfeme. In questo contesto Gesù introduce l'idea che le parole che pronunciamo rivelano ciò che c'è nel nostro cuore e che ogni parola sarà giudicata. Il termine parola oziosa o vana si riferisce a quelle parole inutili, frivole o prive di scopo. Gesù non sta dicendo che ogni conversazione leggera sia condannata, ma ci avverte sulla tendenza che abbiamo a parlare senza pensare, specialmente quando le nostre parole possono causare danno o disonorare Dio. Questo versetto ci ricorda che le nostre parole sono un riflesso del nostro cuore e che come tali saranno esaminate nel giorno del giudizio. Il modo in cui usiamo le parole è una prova costante di ciò che realmente valorizziamo e crediamo. Gesù ci insegna che non possiamo separare le nostre parole dal nostro cuore. Ciò che diciamo rivela chi siamo. Per questo le nostre parole non contano solo ora, ma avranno un eco nell'eternità. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passo. Numero 1. Rifletti sulle tue parole quotidiane. Quante volte parli senza considerare le conseguenze? Questo versetto ci sfida a essere più consapevoli delle nostre parole, assicurandoci che riflettiamo l'amore, verità e rispetto. Numero 2. Cerca coerenza tra le tue parole e la tua fede. Gesù ci chiama a parlare in modo che le nostre parole riflettano il nostro cuore rinnovato in Cristo. Chiediti, le mie parole onorano Dio e edificano gli altri? Numero 3. Ricorda la grazia di Cristo. Anche se le nostre parole saranno giudicate, in Cristo troviamo perdono e l'opportunità di essere trasformati. Se hai fallito in quest'area, cerca il suo perdono e permetti che la sua grazia trasformi il tuo modo di parlare. Preghiamo. Signore, aiutami a essere consapevole delle mie parole, sapendo che hanno un impatto duraturo. Fa che il mio parlare rifletta il tuo amore e la tua verità, e che ogni parola che esce dalla mia bocca sia per edificazione e benedizione. Perdonami, Padre, per le volte in cui ho parlato senza riflettere, e guidami anche affinché le mie parole onorino il tuo nome. Amen. Oggi leggiamo Genesi capitolo 13, Matteo capitolo 12, Neemia capitolo 2 e Atti capitolo 12.